alcuni anni sulla strada del vecchio Sam, cercando fortuna dagli americani, ma nessuno ci ha detto what do you want, man. Sono fuggiti spagnoli, francesi, inglesi, lasciando la loro terra invasa dalla guerra. Penso che nessuno avrebbe niente da dire, scapperei anch'io nel caso scoppiasse una guerra di merda. Bobo, ehi, bobo, bro, bo, bo, bo, bo, ehi, bobo, bobo, bro, bo, bo. Lampedusa, con che coraggio noi teniamo la porta chiusa. Lampedusa, canta con noi, bella Tusa. Lampedusa, forse c'è qualcuno a cui dobbiamo qualche scusa. Lampedusa, canta con noi, bella Tusa. Come fai ad uccidere la speranza? Come fai a piombare i piedi a terra? A stancare l'innocenza, potresti rinchiuso in cella. Come fa un continente intero stare tranquillo con il cuore in pace? Come fai a respingere uno straniero che ti chiede soltanto un po' di pace? Bobo, ehi, bobo, bro, bo, bo, bo, bo, ehi, bobo, bobo, bro, bo, bo. Lampedusa, con che coraggio noi teniamo la porta chiusa. Lampedusa, canta con noi,